una minoranza. Prevarranno i pompieri, sono di più i pompieri. Almeno forse il mio auspicio mi fa pensare in questo modo, però francamente conosco bene un po' tutti, sono amico anche, quindi conosco il buon senso di molti di loro. Senta, ma questa accusa di squadristi del PDL, titolo oggi Il Secolo d'Italia, che sarebbero mobilitati dalla Brambilla, dal ministro Brambilla, per andare a contestare, la Brambilla si è molto infuriata, lei come guardi, la prende? Io spero che questa sia una grossa sciocchezza, non ne ho mai sentito parlare, sarebbe veramente il più grande sbaglio che potessimo fare. Noi abbiamo bisogno di colloquiare, abbiamo bisogno di incontrarci, abbiamo bisogno di trovare le soluzioni e non di fare manifestazioni di protesta o manifestazioni prive di senso. Quindi non li vedrebbe bene quelli che vanno a fischiare, giusto per fischiare. Senta, non vale la risposta, le parole del Capo dello Stato non si commentano. Cominciamo così. Dopodiché, ieri il Capo dello Stato ha detto: avete visto che fine ha fatto il disegno di legge intercettazioni? Quando gli hanno chiesto il processo breve, ecco, è finito in un binario morto. Ecco, ha risposto. Ma è davvero questo processo breve la soluzione per risolvere i problemi della giustizia? Ma no, guardi, io non sono tra coloro che dicono che non si commentano le parole del Capo dello Stato. Io dico che il Capo dello Stato ha svolto il ruolo che la Costituzione gli assegna. E poi è il Parlamento che deciderà se il disegno di legge sulle intercettazioni nel binario morto o meno. Io non sono di questo avviso, non mi pare che sia un binario morto. E lo riporteremo all'attenzione del Parlamento per l'approvazione o meno. Il processo breve invece, c'è questo grande, c'è sempre la giustizia, questo è il tema. Guardi che nel nostro programma è firmato da tutti, anche da coloro che oggi hanno deciso di fare il gruppo, c'era la riforma della giustizia, quindi non mi pare che si sia inventato qualcosa durante il percorso di questa legislatura. Gli elettori apprezzarono, tra le tante cose che scrivevano nel programma, anche la riforma della giustizia. Senta, l'ultima domanda di politica, poi le chiedo della questione autostrade. Repubblica oggi titola: Berlusconi ha deciso il voto a marzo. Questo sarebbe il retroscena, cioè non si fida più di Fini, la ricomposizione sarebbe. Io ho parlato ieri con il presidente Berlusconi e non mi pare che sia di questo avviso, anzi di tutt'altro avviso. Allora bisogna anche qui dalla stampa aspettarsi qualcosa che risponda più al vero. Ieri i giornali scrivevano: Berlusconi basta con gli incendiari, bisogna cercare il colloquio. Sì. Oggi scrivono che Berlusconi ormai ha deciso, si vota a marzo. Allora sappiamo tutti che il voto presto o a marzo o a dicembre ci può essere se in Parlamento coloro che facevano parte del Popolo della Libertà, coloro che facevano parte della coalizione di centrodestra decideranno di non farne più parte, perché non vediamo altri tipi di governo se non quello scelto dagli elettori. Senta, le chiedo, Ministro, la vicenda dei pedaggi autostradali bloccati dal Consiglio di Stato, il rincaro pedaggi per chi ha fatto ricorso, per dove sono stati presentati i ricorsi. Il Codacons dice ora ci vogliono 8 milioni di euro da ridare ai cittadini. Vi preoccupa questa situazione? E vi chiedo, qualcuno ha detto che il governo potrebbe fare un decreto ad hoc per sanare la situazione allo studio? Ma ne parleremo, però devo dire, la sentenza del Consiglio di Stato non ha azzerato tutti gli aumenti dei pedaggi, se non ho capito male, non ho ancora avuto modo di leggere la sentenza, ma soltanto dove si è fatto ricorso. Sono curioso di leggerla questo tipo di sentenza per capire meglio quello che poi potremmo fare. Ma quando il Codacons dice ora ridate 8 milioni di euro agli italiani, cioè nel senso, era stato studiato anche per recuperare dei soldi e non darli più all'ANAS. Mi pare che l'ANAS bloccò l'aumento dal 4 di agosto, quando è stata la sentenza del TAR, quindi come se sia potuto anche quantificare questa cifra nei 4 giorni soli di aumento. Cioè, È tutta da verificare. Intanto nel ringraziarla le dico che la Padania titola "Pedaggi paga solo il Nord", cioè sì, bloccati appunto a Roma, Pescara e Chieti, la Padania continua a essere munta. Sì, ho visto la dichiarazione ieri del mio amico, nonché che fate, ministro Castelli. Che fate, i mungitori della Padania, no? Beh, se nella sentenza del Consiglio di Stato e quella che ho visto sui giornali, beh, è il Consiglio di Stato che ha deciso, beh, se in Padania i ricorsi non ne hanno fatti. Rimangono munti, lei dice. No, rimangono munti. Beh, ripeto, quel che leggo su... se c'è un diritto, c'è per chi ha fatto ricorsi o per chi ne ha fatti. Il fatto che si sia presa una decisione salomonica di questo tipo, ripeto, gradirei, insomma, aspettiamo a leggere la sentenza. Va bene, la ringrazio ministro Altero Matteoli per essere stato con noi, ministro delle Infrastrutture e Trasporti, grazie ovviamente, grazie, buona giornata. Buongiorno. E noi ci fermiamo per pubblicità e meteo, poi parliamo del nostro sondaggio che dovete votare su radio24.it. Fare figli, in America non si fanno più figli anche per la crisi economica. Vi chiediamo, voi avete rinunciato a fare un figlio, a pensare di fare un figlio per problemi economici, per la crisi economica? 24 mattino. Alle 8:33 minuti, ben rientrati e ben ritrovati in diretta, eccoci qua, 800 24 0024 se volete intervenire, oppure gli sms al 349 238 6666. Parliamo di fare figli in tempi di crisi, crisi economica, nel nostro sondaggio di oggi. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Ieri la stampa titolava così: troppo poveri per avere un figlio, crollano le nascite negli Stati Uniti. Ci si chiedeva: è giusto rinunciare a un figlio per paura del futuro? Noi quello che vi chiediamo: avete rinunciato, rinunciate a un figlio in questo momento, a fare un figlio per una questione di problemi economici, di chiedersi tante volte quanto costa un figlio? E tra l'altro sarebbe interessante anche capirlo. Ieri la stampa riportava questo studio recente del Centro Internazionale Studi sulla Famiglia. Da almeno 3.800 euro all'anno, che possono arrivare fino a 9.000 euro all'anno, insomma una media oscillante dai 300 ai 750 euro al mese, e beh, una bella spesa secondo questo studio. Dipende poi ovviamente sempre dalle spese che uno sostiene. Avete rinunciato a fare un figlio per problemi economici? Ne vogliamo parlare intanto con due professori, la professoressa Chiara Saraceno, buongiorno e ben ritrovata, insegna a Berlino, Istituto di Ricerca Sociale di Berlino. Voglio salutare anche il professor Francesco Billari, buongiorno professore. Buongiorno. Ecco, ci insegna demografia all'Università Bocconi di Milano. Senta professoressa Saraceno, a me è un po' spaventa già l'idea di una persona che può ragionare, per carità, non voglio sminuire il problema e gli effetti della crisi, ma impostare un ragionamento dal punto di vista economico quando si tratta di fare un figlio. Però capisco che insomma bisogna fare anche i conti della serva, come si suol dire. A lei preoccupa, spaventa, oppure invece è una questione che bisogna assolutamente impostare in maniera scientifica? No, scientifica magari no, ma immagino che chiunque di noi, chiunque abbia deciso di fare un figlio, valuta non tanto quanto gli costa, cioè che cosa perde se lo fa, ma di che cosa questo figlio avrà bisogno, quindi fare un po' di conti, nel senso me lo posso permettere, ma non come un'idea mi posso permettere una Porsche, ma sarò in grado di dargli ciò che io penso di dovergli dare, che non sono ovviamente solo soldi e consumi, ma è anche tempo, attenzione e così via. In sé è una cosa che non deve colpire. Ci interroghiamo tanto sul fatto che i genitori devono essere responsabili, fa anche parte della responsabilità interrogarsi sulla propria capacità di reggere le domande e i bisogni dei figli. Questo sì, mondo, ma il no? legame, come ieri ti citava la stampa e titolava "troppo poveri per avere un figlio", cioè crollano le nascite per via della crisi economica. Ma lei... non mi sembra, adesso Billari probabilmente ne sa più di me. Ma cioè, intanto bisogna essere chiari, i paesi più poveri sono anche i paesi più fecondi, quindi non è la povertà in sé, ma è l'impoverimento, ad esempio, rispetto alle attese, allo stile di vita che ci si aspetta per sé e per i propri figli. Quindi così, altrimenti avremmo i paesi più poveri con tassi di fecondità molto più bassi dei nostri. Stiamo parlando dei nostri, ed è può essere benissimo che in un momento di crisi economica uno rimanda, cioè dice non è meglio che aspetti, perché non so se riesco a pagare l'affitto, se avrò lo stipendio ancora per il prossimo anno. Si tratta più di rimandi. Sì, sì, sì, sì, sì. Anche se poi la cultura del rimando poi si sa sui figli. No, certamente, no, soprattutto sui figli. Sui figli, rimanda, poi possono non venire più quando li si vorrebbero. Però non lo dobbiamo intendere come un fatto di egoismo o di no, per carità, di un discorso responsabile. Può essere addirittura un effetto di iperresponsabilità, si è così responsabili che si teme di rischiare troppo, non per sé, ma per il figlio che viene. No, ma tra l'altro, vede, poi i messaggi che arrivano al 349-238-6666, ci scrive un ascoltatore, dice: io un figlio lo faccio, non posso più aspettare, io e mia moglie laureate, 110 lode, ma entrambi dipendenti, precari, mal pagati, ma lo faccio comunque. Allora, professor Billari, lei che è un demografo, ci aiuti un po' a capire, come ha detto la professoressa Chiara Saraceno, se c'è questo legame e quanto è quantificabile questo legame tra crisi economiche, difficoltà economiche e nascite di figli. Se proviamo a vedere i dati americani, che sono quelli che hanno un po' lanciato questa discussione, il calo rispetto al 2007, guardando i dati del 2009, è dell'ordine del 5%, quindi è ancora presto per dire che ci sia un grosso effetto della crisi economica. Gli Stati Uniti fanno comunque due figli per coppia, è sicuramente una società molto diversa dalla nostra, quindi si è passati da 2,1 a 2, è troppo presto per dire che ci sia un forte calo dovuto. Questa, lei pensa che ci possa essere un'onda magari nei prossimi 2 o 3 anni, si potrà quantificare, anche perché ovviamente per fare un figlio ci vogliono 9 mesi, se ricordo bene, quindi insomma c'è un qualcosa che potrà essere studiata nel tempo? Certamente è pane per gli studiosi e sarà molto importante monitorare la situazione. È chiaro che i cambiamenti di regime si vedono solo dopo qualche anno, il segnale attuale non mi sembra dare un'indicazione molto precisa su questo, quindi non potrei dire che hanno smesso di fare figli gli americani, probabilmente li hanno rinviati. C'è anche da dire però, in aggiunta a quello che diceva la professoressa Saraceno, che se guardiamo i paesi più ricchi, all'interno dei paesi più ricchi sono quelli più ricchi che fanno più figli, quindi è vero che ancora oggi nel mondo nei paesi poveri nascono più bambini, ma se ci limitiamo ai paesi più sviluppati, dove probabilmente le decisioni sono ponderate di più, sì, come è stato detto, dove c'è più ricchezza ci sono più figli. Beh, questo è interessante. Tra l'altro, professore, prima di annunciare anche un altro ospite che ci ha raggiunto, le faccio una domanda che il professor Billari insegna anche negli Stati Uniti, e posso anche dire, lo diciamo, svegliamo, penso che sia un motivo di orgoglio, il professor Billari, che è molto giovane, ha 5 figli? 5, giusto, professore? È vero. 5 figli. Ma lei crede a questa idea del cioè chi si pone la domanda ho paura di mettere al mondo un erede per una questione prettamente economica? Cioè è un discorso certo di responsabilità, come ci ha detto la professoressa Saraceno, ma le chiedo, non bisogna anche un po' buttarsi in queste cose, perché altrimenti non si affrontano mai con la politica del rimando, con l'idea del rimando? Allora, diciamo che io tendo a pensare che sia dal punto di vista politico che dal punto di vista etico sia molto problematico suggerire alle persone delle scelte quando si tratta di decidere come e quando avere figli. Quello che è giusto fare è fornire informazioni. Certamente oggi sappiamo che si hanno figli non solo per un impeto altruistico, che giustamente ha segnato per se stesso Saraceno, ma anche se sono compatibili con la realizzazione personale. E quindi è chiaro che questo meccanismo di ponderazione implica che ci si proietti da qui a qualche anno e ci si pensi genitori. Genitori lo si è per sempre. Certo. Mario Sverna, buongiorno. Buongiorno a lei. Mario Sverna è il presidente dell'Associazione Nazionale Famiglie Numerose. Numero di figli? 6. 6 figli. Beh, Complimenti. Sei figli, che lavoro fa? Che lavoro fa lei? Impiegato. Io e operatrice sottosistenziale, part time, mia moglie. Accidenti, no, perché presto si dice, e abbiamo letto questa ricerca, può costare dai 300 ai 750 euro al mese un figlio. Non sì, è vero. Oddio, come fate voi? Cioè, se moltiplico per 6, 750 euro per 6, che impiegati siete? Sì, no, ma è vero, effettivamente, se si vuole mantenere al figlio, ai figli, alle figlie, uno standard di vita italiano, certamente quella è la cifra che bisogna spendere. Se ci si accontenta di meno e si fanno, come dire, dei sacrifici, o ci si inventa insomma anche un po' di soluzioni alternative, si può spendere di meno, però certamente è una rincorsa contro il tempo ogni giorno per poter, anche in presenza di un governo assolutamente inefficiente, incapace e bugiardo sulle politiche familiari come quello attuale. Vabbè, adesso al di là del poi magari ci spiegherà meglio questa sparata, però le chiedo che mi dica le tre rinunce che voi avete fatto, cioè quelle assolutamente le rinunce da fare, perché lei mi ha detto se si vuole crescere con il modello tipicamente italiano, anche voi vivete in Italia, ma forse delle rinunce immagino le dobbiate fare in famiglia, visto che siete in otto. Che tipo di rinunce fate? Le tre più eclatanti? Le vacanze sono la prima cosa che si rinuncia, che quando eravamo sposati io e Egle ci godevamo spessissimo e volentierissimo, insomma. E cioè quest'anno lei in vacanza, voi in vacanza non siete andati? Questi anni. Noi questi anni, da quanti anni non fa vacanze? Almeno 5-6 anni. Sì. Poi? Poi le uscite tipo pizza, ristorante, cinema, che insomma sono cose piacevoli da fare, ma che si riescono a raggiungere solo una volta ogni tanto. Ogni quanto? Una volta al mese, dai. Sì, una volta al mese ce la facciamo, però con fatica, non sempre, perché ci vogliono 100 euro almeno solo per andare a mangiare la pizza. Certo, in 8. Perciò insomma non è una cosa facile. E poi va bene, altre cose sinceramente non mi vengono in mente, se non sono quelle tipiche della nostra società, cambiare il cellulare che non si cambia ovviamente. Vabbè, queste cose qui che magari può anche fare a meno, magari uno potrebbe avere anche il piacere di prenderle, invece niente. No, però questo è interessante. Allora, prima del traffico, professoressa Saraceno, che cos'è questo, l'idea di rinunciare alle vacanze, necessariamente rinunciare alle vacanze, rinunciare ad andare in pizzeria perché altrimenti non si può fare a meno, è un atteggiamento mentale giusto? So che la domanda è molto politica, scorretta. Il giusto e lo sbagliato dipende da che cosa uno vuole fare nella vita. Però, è una vita di rinunce, ovviamente. Ma non è solo una vita di rinunce, cioè dipende se hanno avuto tutti questi figli e anche perché hanno il piacere, cioè bisogna vedere anche l'altro aspetto, cioè chi sceglie, decide di avere più figli, evidentemente ne trae anche dei piaceri, cioè è la cosa cui senza dubbio tiene di più che andare in vacanza. Poi potrà anche essere, come dire, dispiacersi perché non può andare nelle vacanze che vuol fare, però non è una questione solo di sacrifici che ci sono, ma sacrifici rispetto ad alcuni aspetti, in cambio di altre cose cui si teneva. Dopodiché bisognerebbe renderle più facili queste scelte per chi le vuole fare, avrebbe riconosciuto di più il costo dei figli. Poi alle vacanze si rinuncia per sé, ma anche Ma su questo non c'è dubbio, imparassimo un po' di più dalle politiche. In qualche modo si rinuncia, cioè anche ai figli vengono imposti. Però anche le cifre che vengono date su quanto costano i figli, che costano moltissimo e soprattutto per molti anni, dipende anche da che cosa uno vuol fare. Cioè, se uno vuol comprare il cellulare al figlio di 8 anni, oppure vestirlo griffato, firmato, ogni consumo, qualsiasi cosa, perché altrimenti poi si sente discriminato a scuola perché non ha tutto l'ultimo gadget. Questo forse nelle famiglie numerose, io vengo da una famiglia numerosa, quindi me lo ricordo, non l'ho fatto. No, in ogni caso mi lasci dare anche una maggiore sobrietà. Devo andare a dare le informazioni sul traffico. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? È il secondo giorno che vi state spaccando a metà la domanda: avete rinunciato a un figlio, a fare un figlio per problemi economici? Il 51% di voi dice di sì, il 49% no. Insomma, votate su radio24.it, continuate a votare. Voglio andare a Brescia da Marinella. Buongiorno. Buongiorno. Dica. semplicemente questo. Io ho rinunciato al mio terzo figlio con un dolore incredibile, ma non sarebbe mai potuto nascere e inserirsi nella situazione economica che noi avevamo. Io sono di origine francese, non ho nessun appoggio, cioè i nonni qui non ci sono, non c'è un pezzo della famiglia che ti può dare una mano. Sicuramente in Francia l'avrei tenuto. Anche perché in Francia ci sono delle politiche familiari che ci danno 50 punti di classifica, ci danno rispetto all'Italia, no? Mi pare che Sarkozy voleva togliere, per esempio, gli sconti, le tessere gratuite per i trasporti, per le famiglie numerose. Ha provato a farlo, c'è stata una rivolta popolare. Insomma, ci sono delle politiche familiari che noi ci sono. Ma è tutto completamente diverso. Io ho cambiato casa per andare in un comune dove ci fosse il tempo prolungato, altrimenti il pomeriggio c'è la babysitter per i bambini. Non è fisicamente possibile, è non un dolore è possibile. Incredibile, perché io lo farò comunque il terzo figlio, cercando di preparare il terreno un altro, di preparare un altro terreno, ma in quel momento lì... In quel momento dice non poteva, no, dal punto di avrei dovuto fare i debiti, al lavoro devi rientrare, io non posso rinunciare al lavoro. Va bene, grazie Marinella, voglio andare ad Arezzo, da Stefano, buongiorno. Buongiorno Milan. Dica. No, senta, purtroppo il mio è un intervento fotocopia della scuola. Dica. Perché primo figlio. Adesso le spiego per esempio la giornata. Ho chiamato subito Radio 24 perché sono proprio... Allora, primo un figlio, oggi le scuole sono chiuse, io adesso vado a lavorare, c'è la babysitter fino a l'una. A l'una vado lì con mia moglie, la portiamo dal pediatra, ritorniamo, la porta una zia e mi faccio oggi 120 chilometri per sistemare la bambina. Cioè dice ha un figlio, immagina io se dovessi fare un altro, e come faccio? Però Stefano, io le voglio far rispondere da Mario Sverna, perché io Mario Sverna le ho fatto ascoltare appunto sia Marinella che Stefano. Qua vede, cioè Marinella dice terzo figlio non potevo al momento. Stefano dice addirittura dobbiamo fare i salti mortali con un figlio, il secondo no. Visto che voi ne avete sei, mi dica come ci si organizza, cioè è davvero così impossibile organizzarsi? Che... Ma rispetto a Marinella noi abbiamo il vantaggio il grosso piacere di avere ancora i nonni in gamba e quindi capaci di coprirci questi orari. Sono sempre sei però. Per sei, però ovviamente il primo ormai ha 20 anni. Ah, il piccolino ne ha 4, perciò in mezzo ci sta anche il nostro di 20 anni che quando non va a lavorare fa il babysitter dei suoi fratelli senza ombra di dubbio anche lui. È difficile i primi anni quando sono tutti piccoli o i primi 3-4 piccoli, hanno ragione gli ascoltatori, effettivamente se non c'è una rete solidale, familiare che dà una mano è piuttosto difficile. Poi siamo sempre lì, è una questione di, lo diceva prima la dottoressa Saraceno, insomma la Chiara Saraceno, è una questione di priorità. Se come priorità ti sei preso l'apertura alla vita e alla famiglia, è chiaro che per esempio abbiamo rinunciato per un po' di tempo entrambi al tempo pieno, Egle tuttora part time, io facevo 6 ore in maniera che poi facevamo collimare gli orari e ci si arrangia un po', certamente questo vuole dire meno stipendio e di conseguenza si chiederebbe di più alla politica che non dà. Ho capito, però voglio dire, lei mi sta dicendo che fa una vita con 6 figli, certo il più grande a 20 anni eccetera, quando dall'altra parte Stefano D'Arezzo ci dice con un figlio fanno fatica, cioè c'è qualcosa che effettivamente mi sfugge in questo incastro tra due storie, però è chiaro, poi le vite di ognuno sono organizzate in modo diverso. Io vorrei dal professor Billari che ci aiutasse a capire qualcosa del legame tra fare figli, demografia in Italia in questo caso e l'immigrazione. Si dice spesso ci sono più figli, magari la tendenza è a fare più figli perché ci sono più immigrati. Le chiedo, è vero? E poi mi aiuti anche nord-sud a capire la geografia di come siamo messi in Italia. Allora, diciamo che è vero, ma solo in parte. Da quando c'è stato il record negativo delle nascite a livello mondiale a metà degli anni 90 in Italia, oggi la fecondità è salita a livelli comunque molto più bassi rispetto agli Stati Uniti, quindi stiamo parlando di un passaggio da 1,2 a 1,4-1,5 figli per donna, diciamo che si può stimare che una metà di questo cambiamento è dovuto alle nascite degli immigrati, che io preferisco chiamare nascite che ci portano nuovi italiani, diciamo, avendo una prospettiva orientata al bambino, che è sempre importante tenere presente nella discussione di oggi, cioè la realizzazione dei genitori potrebbe anche andare a scapito della realizzazione dei figli. Quindi, parlando di immigrati, ci viene subito in mente una difficoltà, per esempio, nel progredire a scuola, che è una difficoltà che incontrano anche i figli delle famiglie numerose, purtroppo, oggi in Italia. Sì. Mentre la questione nord-sud, cioè si fanno più figli al nord, si fanno più figli, sempre si dice si fanno più figli al sud. Mi pare che questa tendenza sia un po' vanificata negli ultimi tempi. Oramai gli studiosi sono concordi, i dati sono consolidati, e clamorosamente c'è stata un'inversione nell'ordine: si fanno più figli al nord che non al sud. Le regioni con la fecondità più bassa sono Basilicata e Sardegna, le regioni con la fecondità più alta, tolte quelle di montagna, la regione con la fecondità più alta è la Lombardia. Ah beh, insomma, interessante. Professoressa Saraceno, ieri nel commentare questa ricerca del Centro Internazionale di Studi alla Famiglia, l'impietosa analisi del sociologo Pierpaolo Donati, che ha curato questo rapporto, è chiaro: sprechiamo denaro per viziare i nostri figli con gadget, abiti, quello che si diceva prima. Ora, dare il giudizio magari così tranchant non è sempre... Però la linea di tendenza lei la condivide, questa linea di tendenza, cioè sono viziati i nostri figli? Ho trovato un po', come dire, tranchant, appunto, e anche un po' moralista l'affermazione di Donati. È vero che spesso si eccede, io da vecchia nonna ogni tanto mi guardo in giro e mi sembra che i bambini di un certi ceti sociali abbiano un po' troppe cose, gli si dia un po' troppo tutto, un po' troppo presto. Però il problema grosso, secondo me, non è qui. Il problema grosso è come dire, dare libertà di scelta. La signora che prima diceva non posso fare terzo figlio adesso perché devo lavorare, mio marito deve lavorare, non c'è il tempo pieno, e le nonne non sono, come dire, sempre disponibili. Io sono una nonna lavoratrice, sono sempre disponibili, e soprattutto anche loro non ringiovaniscono. Questo è il problema vero, cioè invece di guardare, cioè di dire che la riduzione o la difficoltà a fare un figlio in più è dovuta al fatto che si viziano troppo i figli, forse bisognerebbe guardare un po' più fuori, cioè che questa non è una società, quella italiana, molto amichevole nei confronti di chi... No, politiche familiari, c'è molto da fare. Ma non è solo ci sono le politiche pubbliche che sono pressoché assenti, ma non solo, adesso devo dire, da parte di questo governo, è una storia lunga dell'Italia, questa assenza di politiche a sostegno di chi ha figli. Si parla tanto di famiglia, ma poi le priorità a proposito sono sempre diverse, ma anche i datori di lavoro, che si dice tanto che ci vogliono più donne nel mercato del lavoro, ma poi l'organizzazione del lavoro è fortemente nemica di chi ha anche responsabilità di cura, c'è tutta la flessibilità, ma perché va bene all'azienda, mai che si pensi o raramente a una flessibilità che sia più amichevole nei confronti di chi ha responsabilità di cura. Ecco, quindi è tutto un complesso, abbiamo pochi ristoranti o pizzerie che fanno anche prezzi di favore o che fanno il menù bambino. No, anzi, sono visti un po' con ostilità, insomma. Immagino la famiglia di Mario Sverna quando prenota in una pizzeria quella volta al mese, no? I otto che arrivano già pensano a questa orda di barbari. Scherzo, ovviamente, Sverna. E vi ringrazio, devo fermarmi. Chiara Saraceno, Francesco Billari e Mario Sverna, grazie per essere stati con noi. Continuate a votare su radio24.it. ringrazio anche Antonella Migliaccio in redazione e Filippo Aureggi in regia. Che dire, scriveteci bianco o nero e radio24.it. l'appuntamento alla linea Oscar Giannino, l'appuntamento a domani ci sarà Irene Zerbini che mi sostituisce. Noi ci risentiremo lunedì mattina, ma domani con Irene Zerbini in diretta regolarmente. A domani.